Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Che il tema della Smart City stia entrando in vena, diciamo così, lo testimoniano tre importanti appuntamenti fieristici che quasi in perfetta sincronia si svolgeranno tra Milano e Bologna nell'arco di questa settimana. Tutti e tre con al centro il tema dello sviluppo delle città intelligenti. Beh, insomma, non si può fare a meno di notare che la sovrapposizione dei tre eventi proprio geniale non sia, ma tant'è, noi cercheremo di raccontarveli tutti e tre. Iniziamo questa sera da SMAU. A Fiera Milano City dal 17 al 19 ospiterà al suo interno lo Smart City Roadshow, una sorta di tour voluto da ANCI e SMAU che approda a Milano dopo essere già transitato da altre città italiane. Tanti workshop, tanti momenti di confronto col tentativo di disegnare la via italiana alle città intelligenti, prima di tutto riconoscendo le peculiarità del paese. Una consapevolezza che sta emergendo nei comuni italiani, e Federico Pedrocchi ne ha parlato con Andrea Granelli, autore di Città Intelligenti. Sentiamo com'è andata. Andrea Granelli, che è qui con me questa sera. Buonasera Granelli. Buonasera. Ha scritto un libro che si intitola Le città intelligenti, edito da Luca Sossella. C'è una prefazione del ministro Profumo, Francesco Profumo, e anche una conclusione, una postfazione di Graziano Del Rio, che è il presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni. Granelli, tu proponi una versione all'italiana delle Smart City, ma in generale però diciamo un ripensamento di tutto quello che si sta dicendo adesso sulle Smart City, anche facendo. Esatto, infatti il titolo completo è Città intelligenti punto interrogativo, dove io mi pongo la domanda se una città possa essere intelligente, nel senso che ritengo che le tecnologie oggi possono dare una grande opportunità alle città e ai cittadini, ma bisogna ripartire dalle città, dai problemi, dalle vocazioni, da quello che possono fare, devono fare, e non dal potere abilitante della tecnica. E le città italiane sono diverse, non sono solo più piccole, quindi non basta dire smart city, smart town. Hanno per esempio i centri storici, hanno le piazze, sono pedonabili, hanno un rapporto con la natura e col cibo che le circonda molto particolare. Ecco, quindi è da lì che bisogna partire, non per un gusto nostalgico che noi siamo diversi perché ci piace essere diversi, perché è la storia, è un dato di contesto. Cioè tu dici ci stiamo dimenticando di carte da giocare italiane che invece abbiamo e sono importanti. Pensiamo al tema dei centri storici, non è tanto solo il tema dell'Aquila. Cosa vuol dire un terremoto nell'Emilia Romagna? Ci sono una parte rilevante dei centri storici romagnoli che sono danneggiati, bisogna convivere con edifici danneggiati. Questo è un tema che non possono essere abbattuti e ricostruiti anche per il loro valore identitario. È un esempio che richiede risposte tecnologiche, attenzioni e priorità diverse rispetto a vedere smart city solo come energia e inquinamento. E poi tu sottolinei anche questa cosa, questa grande tradizione che è quella dell'alimentazione, che deve far parte della proposta in fondo italiana anche a livello mondiale per quanto riguarda le possibilità di Smart City. Un po' perché il tema del cibo è talmente rilevante che diventa l'argomento di Expo 2015, un po' perché il dialogo tra città e cibo, quindi come il cittadino, visto che la popolazione è sempre più quella urbana, come si approvvigiona, come si nutre, è legato poi al tema del cibo, al tema del chilometro zero alimentare, il tema delle strutture, pensiamo ai modelli per esempio di Coldiretti, dei farmer market, degli orti urbani, no? Quindi c'è tutto un grande tema, anche molto, come dire, da smart city, no? Quindi tecnologie, tracciabilità alimentare, approvvigionamenti, processi di refrigerazione, design del cibo, anche il fatto che la dieta mediterranea sia entrata nel patrimonio mondiale dell'UNESCO è un tema che il mondo ci riconosce. Cioè tu dici lì, se noi ci limitiamo a produrre delle app che sullo smartphone ti dicono qual è il ristorante di pesce più vicino, facciamo veramente tremendamente poco rispetto a quello che possiamo fare a partire dalla nostra tradizione. Esatto, è proprio un gioco. Pensiamo i dati che sono noti, anche quanto cibo viene distrutto ogni giorno, no? Per il fatto che non viene consumato, per il fatto che i ristoranti lo buttano fuori. Ne cito una cosa banale, no? O il fatto che il chilometro zero non è tanto una visione un po' antica, è il fatto che è giusto consumare il cibo di stagione, e è assurdo far venire la frutta da migliaia di chilometri congelandola e sprecando energia. Allora, queste riflessioni possono essere fatte non in maniera ideologica, ma per il fatto che una città deve essere nutrita, e deve essere nutrita con intelligenza, risparmiando i costi. So anche che c'è un tema che a te è molto caro, sul quale hai lavorato molto, ed è tutto il nostro patrimonio storico-culturale. Anche lì c'è poca attenzione su questa, che è un'altra specificità nostra. italiana. Sì, il concetto di centro storico è un bene culturale che deve vivere, deve essere modernizzato. Pensiamo, non so, al caso di Perugia, le sperimentazioni di mobilità, no? Prima le scale mobili nella Rocca Paolina e adesso il trenino senza conducente della Leitner progettato da Jean Nouvel. Questo è un classico esempio di come una città storica, in questo caso anche molto elevata, porta delle sfide che vengono risolte con innovazione tecnologica sostenibile e anche di qualità, un grande architetto, una grande firma. Pensiamo a Venezia col Motondoso, pensiamo a Matera. Quindi dal nostro punto di vista i centri storici non sono le reliquie del passato, sono una grande occasione per ribadire un'identità che è sempre più ricercata in un mondo anonimo, e diventano luoghi dove si sperimentano le tecnologie più innovative, che poi se funzionano lì funzionano anche in contesti molto più semplici. In fondo noi dovremmo essere in questa direzione coloro che possono portare il massimo contributo e i massimi suggerimenti per città europee e mondiali. Assolutamente, tra l'altro il fatto che la Commissione europea sta cambiando le politiche di incentivo e si tende sempre di più a incentivare non tanto l'offerta, quindi finanziare le aziende a inventarsi prodotti inutili, ma la domanda, quindi fare in modo che vengano comprate cose utili, quindi qualificando la domanda pubblica e quindi introducendo quelli che vengono chiamati i living labs, quindi laboratori a cielo aperto dove si sperimenta in vivo nuova tecnologia. Ecco, i nostri centri storici sono i più fantastici living labs, anche perché noi abbiamo un patrimonio straordinariamente complesso, articolato e variegato, ma anche i climi e i terremoti, quindi siamo anche un laboratorio molto vario su questo nesso, che tra l'altro fa parte di un JPI, quindi di uno sforzo comunitario importante di ricerca che si chiama Climate Change and Cultural Heritage, quindi rapporti tra cambiamento climatico e patrimonio culturale, dove chi meglio dell'Italia è il più grande laboratorio dove queste cose, ahimè, già accadono. E abbiamo parlato dei sismi, piuttosto che dell'alluvione nelle Cinque Terre, piuttosto che di Venezia, però sono luoghi dove si sperimentano nanomateriali, sensoristica, è lì un luogo di sperimentazione. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, parleremo di Made Expo. Buona serata.